L'economia delle piccole cose. Di Anna Migliorati. Essenziali secondo alcuni, male necessario secondo altri, manna dal cielo un nemico da combattere. I siti di acquisti online hanno dominato il lockdown e non solo da noi in Italia. Hanno davvero cambiato per sempre la nostra economia delle piccole cose, coi negozi che riaprono e tra mille incognite cerchiamo di capirlo. Ben ritrovati da Anna Migliorati. E-commerce significa Amazon innanzitutto, ma non solo, visto che molte catene hanno venduto online e lo hanno fatto, abbiamo visto, anche piccoli negozi. Gli web shopper italiani nel contesto internazionale a fine febbraio, un'era geologica fa nel mondo economico, erano già più di 23 milioni, molti compratori abituali a distanza in costante aumento e crescita. Compratori non solo di beni, ma anche di servizi o anche di voli aerei. Tutto questo ovviamente in un altro contesto. Molti altri però, con tutto quel che è accaduto, si sono aggiunti e di certo molti prodotti introvabili per i negozi chiusi li abbiamo comprati in questo modo, è innegabile. E a lockdown finito o quasi, che succederà? Allora, spazzato via tutto? Basta così? Non ne parliamo più? Noi vogliamo continuare a capire come stiamo cambiando insieme all'economia. Marco Scotti è già stato nostro ospite, lo ritroviamo con noi, autore di Codice Amazon. Buongiorno a tutti. Noia o necessità? Uno dei segreti in qualche modo per sopravvivere. Pensavo anche più noia e invece è stato soprattutto necessità. Ci sono stati acquisti che io pensavo e speravo che sarebbero stati più improntati all'aspetto leisure, quindi come impiego questo tempo della quarantena, e in realtà poi le categorie merceologiche più ricercate sono state quelle che tutti ci aspettiamo: i guanti monouso, i prodotti per la tosse raffreddore. E poi ovviamente svetta la macchina per il pane, perché la grande corsa al lievito e alle farine che si è vista nei supermercati poi si è tramutata nella necessità di panificare, ed è stato anche il tentativo di tenersi in forma. Sono triplicati gli acquisti dell'attrezzatura per l'allenamento, con i pesi, le piccole palestre che si possono tenere anche in casa, insomma, testimonianza tangibile. Troppe torte, esatto. E invece un altro dettaglio carino: c'è anche il crollo delle macchine fotografiche, quindi vuol dire che dopo un primo momento di quasi euforia per questa quarantena in cui eravamo sui balconi a immortalare qualsiasi cosa facessimo, invece quindi l'idea che non fossero momenti che necessitassero di essere immortalati. Però è vero che se i supermercati erano chiusi, alcuni reparti erano chiusi, anche sul web si sono date delle priorità. Si sono creati anche delle cose un po' strane, però per esempio la cartuccia per la stampante non veniva più considerata un bene di prima necessità. Un po' come la crisi dei quaderni nei supermercati, eppure servivano, e come se servivano per poter stampare le famose autocertificazioni, ma purtroppo era un bene che inizialmente non veniva consegnato, poi evidentemente le policy sono cambiate. I siti web, dai piccoli ai grandi, sono letteralmente esplosi, arrivando anche ad una clientela che non era nemmeno pensabile. Tant'è che Jeff Bezos, ad esempio, negli Stati Uniti ha deciso anche di aumentare lo stipendio ai suoi. Però è anche vero che hanno in qualche modo portato fino all'estremo le loro possibilità. Tu pensa che hanno fatto un'indagine, il consorzio Netcom, per cui ci sono stati 2 milioni di nuovi utenti. Di questi, almeno 1,3 milioni sono direttamente riconducibili al Covid, cioè sono persone che senza la pandemia che noi abbiamo vissuto non si sarebbero mai sognate di comprare qualcosa su internet, in un momento in cui oltretutto, per dire, Amazon ha alcuni magazzini che erano nella prima zona rossa, cioè la provincia di Piacenza, quindi c'è stata una doppia sfida per chiunque facesse e-commerce: l'approvvigionamento del magazzino e la possibilità poi di spedire in tempi ragionevoli. Ecco, poi appunto ripetiamo, parliamo di Amazon, ma perché è stata un po' la storia simbolo, perché poi veramente sono tantissimi, c'è stata anche una gestione internazionale. Ecco, gli arrivi della merce dall'estero, c'è stato anche quello, perché alcuni di questi prodotti non erano in Italia. Ma guarda, noi abbiamo avuto la fortuna di avere una catena logistica a livello europeo che ha tenuto, perché al di là di alcune iniziative sporadiche, ad esempio quando è stato chiuso il passaggio con la Slovenia, per il resto si è sempre tenuto aperto un canale per i camion, per la logistica e tutto quanto. Questa cosa ci ha salvato, altrimenti probabilmente avremmo vissuto momenti veramente difficili per quanto riguarda determinate categorie merceologiche. Noi fortunatamente sul cibo siamo stati molto forti e totalmente o quasi autosufficienti, ma su altre categorie merceologiche avremmo rischiato veramente grosso. Grazie allora per questo panorama. Grazie a voi. Comodità, maggior assortimento, prezzi più convenienti, questo era il segreto fino a pochi mesi fa. Ora che si riapre, che si ricomincia ad andare fisicamente a comprare, che succede? La logistica innanzitutto, siamo davvero alla svolta, che succede? E allora? Facciamo i conti. E questa volta con Economia delle piccole cose lo facciamo con il diretto protagonista, in qualche modo la storia che diventa i nostri conti, per parlare di quel che riguarda noi dell'economia delle piccole cose. Saluto la country manager Amazon, Mariangela Marseglia. Cominciamo dall'inizio, perché anche Amazon è una struttura fisica e il primo focolaio in Lombardia è nato dove siete voi, insomma, dove c'è tra l'altro anche uno dei più grandi centri vostri di stoccaggio. Com'è andata? Noi abbiamo il nostro ufficio a Milano, quindi sicuramente nel cuore della Lombardia, nel cuore dell'epidemia, dove ci sono insomma quasi 1000 dipendenti, e poi abbiamo uno dei nostri magazzini principali che è nell'area di Piacenza. Quindi è stato un impatto forte sia a livello emotivo che poi a livello professionale, per mettere in sicurezza i nostri lavoratori di magazzino e continuare poi ad assicurare l'opportunità di continuare a ricevere quello di cui avevano bisogno. Quindi è stato veramente difficile. E all'improvviso sono cambiate anche le richieste, i prodotti che magari non erano tra quelli che avevate di più a disposizione? Uno di noi poteva prevedere quello che poi è successo, e quindi no, chiaramente non eravamo preparati. All'inizio abbiamo visto un picco importantissimo di domanda su prodotti che non sono normalmente così frequentemente acquistati online. Per fortuna Amazon è un'azienda che ha una supply chain molto robusta, molto solida, per cui abbiamo fatto in modo di prima possibile procurarci in quantitativi importanti tutto quello che la gente chiedeva. È chiaro che così come noi l'hanno fatto in tanti, per cui alcuni prodotti sono diventati i più difficili da reperire. Si è detto, si è raccontato, si è scritto tantissimo in questi mesi. C'è chi ha addirittura azzardato che sia arrivata l'età adulta dell'e-commerce per l'Italia. Un salto c'è stato? Ma allora, c'è stato sicuramente un incremento della domanda, ma se parliamo di fase adulta dell'e-commerce in Italia, credo che ci sia ancora molto strada da fare. Non ci dobbiamo dimenticare che la base di partenza è veramente piuttosto bassa. L'e-commerce in Italia ha circa il 7% del totale del retail, quindi vuol dire che oltre il 90% delle persone si rivolge a negozi tradizionali. Questo è una cifra che è circa la metà, una percentuale che è circa la metà rispetto a quella di paesi come gli Stati Uniti o l'Inghilterra, per esempio. Quindi in realtà la strada da fare è ancora lunga. Ci sono dei segnali però che io credo perdureranno nel tempo. Per esempio, una delle cose che mi hanno colpito è il fatto che abbiamo visto un aumento delle persone con un'età più adulta rispetto a quella che è l'età media dell'e-commerce, quindi persone con più di 55 anni che hanno avuto un incremento a doppia cifra tra gli shopper online. Quindi quello abbiamo visto in altri settori. Se lei pensa all'uso adesso dei social media da parte Facebook, ormai è diventato più per un target più adulto rispetto a quello che era inizialmente. Quindi credo che anche questo inizio possa essere un buon segnale per il futuro. Dicevamo, commercio online, ma strutture fisiche, al di là dei furgoncini per il trasporto, i magazzini. Ora si discute di come, di quali siano i modelli migliori anche in queste situazioni. Grandi magazzini, ma magari in zone che possono essere complicate, o piccoli di prossimità per le consegne dell'ultimo miglio. Quale soluzione? Ma in realtà noi abbiamo a seconda del tipo di servizio entrambi i modelli. la parte maggiore della nostra attività, abbiamo sicuramente dei grandi centri logistici. In Italia in questo momento ne abbiamo quattro sparsi su tutto il territorio, da nord a sud, dove stocchiamo la maggior parte della merce. Tra l'altro non sono soltanto questi, perché il network di Amazon è un network europeo, quindi i clienti italiani vengono serviti anche da questi grandi magazzini che sono oltre i confini nazionali. E questo ci consente poi di aumentare il numero di prodotti che sono a disposizione dei clienti italiani. Poi però abbiamo una serie di, diciamo, di centri di smistamento, di distribuzione più piccoli, che sono una sorta di pezzo intermedio della logistica, che ci servono poi per come dire, smistare le consegne verso poi il cliente finale. Ecco, di Facebook ha parlato lei prima. Facebook, che notizia di queste ore, apre anche al commercio online. Come la vedete come concorrente? No, io sono molto convinta che la concorrenza sia una cosa positiva, quindi ben vengano iniziative di altri player. Alla fine a beneficiarne saranno non soltanto i clienti, ma anche le tante aziende piccole e medie che avranno un canale in più per raggiungere i loro clienti, sia in Italia che all'estero, perché poi la cosa secondo me molto positiva di siti come Facebook o come Amazon è che danno accesso non soltanto a un bacino di utenti nazionale, ma anche al di fuori dei confini nazionali. Lo so che avreste avuto molte altre domande, il nostro tempo finisce qui, avremo occasione magari di tornarne a parlare. Da Anna Migliorati, ancora un saluto, ci risentiamo alla prossima, ci trovate sempre anche sul nostro sito www.radio24.it.